Nuovamente buongiorno, puntuale 11:30 minuti, puntata del Jazz Live 20 ottobre 2023, vigilia di weekend venerdì, puntuale anche se inaspettato questo sole per la giornata odierna, ed entriamo nel vivo, sta per partire, già ne è stata data presentazione dell'edizione 2023 del Bologna Jazz Festival. Inizieremo con il weekend al Torrione. Intanto buongiorno Alfredo. Buongiorno Willy. Si è spenta una luce importante, però quella di Carla Bley. Già. Ieri ne abbiamo parlato all'interno di Altri Suoni. Volevo aggiungere, Alfredo, tu l'hai vista sicuramente. Sì, tante volte. Dal vivo, immagino più volte, certo. Compositrice, pianista, una classicità all'interno del jazz che non dimentica il buon gusto e allo stesso tempo dà importanza all'ascolto. Le collaborazioni con il marito Paul Bley, con Steve Swallow, con Mantler, il trombettista austriaco. Mantler fu poi il secondo compagno. Sì, fu il secondo, sono andati in ordine cronologico un po' sparso, però la collaborazione importante con Mantler, la SM, insomma una luce che si è spenta ma che rimane indubbiamente con grandi note, grandi composizioni. Partiamo con quello che è stato invece a Ferrara, un concerto che ha visto al sax tenore Jerome Sabbagh, il suo quartetto formato da un pianista per il quale ho una grande passione, che è Danny Grissett, virtuoso, capace, molto comunicativo, raffinato, ricordo anche Joe Martin al contrabbasso, e questo batterista quanto mai energico, Kayvon Gordon alla batteria, per completare questo mosaico. L'ho portato anche in colonna sonora per dare musica alla Biennale del Mosaico di Ravenna, perché queste sonorità mi hanno veramente ricordato le tessere di un modern mainstream jazz, oltre che bello da vedere, quanto mai comunicativo e leggibile da ascoltare, ovviamente con una raffinatezza e una particolare importanza per questa curiosa rassegna di main concert al Torrione, il sabato del Torrione, che sto seguendo con continuità. L'ho portato anche in colonna sonora per quest'oggi, Danny Grissett nel suo assolo. Ne ascoltiamo un paio di minuti, poi torniamo in diretta e partiremo ovviamente con la serata di questa sera al Jazz Club di Ferrara. Danny Grissett per voi. Le linee di contrabbasso che portano una sottolineatura alle note di Danny Grissett in questo concerto, che mi ha ricordato non solo dall'estetica di Danny Grissett sempre incompleto, elegante, anche la scrittura dei Modern Jazz Quartet che si presentavano con questi completi elegantissimi, no? Perché con Milt Jackson volevano sottolineare a loro volta anche una certa raffinatezza nel presentarsi, ricordi Alfredo? Ma certo, Milt Jackson è Modern Jazz Quartet, gruppo che ha avuto notevolissime anche intuizioni musicali, con i maestri come Mill Jackson al vibrafono, John Lewis al pianoforte, per dirne solo i due principali protagonisti. però si presentava bene, perché c'era questo aspetto di fraintendimento, loro ne approfittavano, perché essendo eleganti, non in particolare in tempi in cui si avvicinava al Freddy questi ragazzi, no? Sì, o certo, anche Bebop, i ragazzi poi sì, un po' con gli occhiali neri, un po' scontrosi, invece erano tutti eleganti, gentili, e si aprivano le porte ai teatri comunali, perché tra l'altro quei loro Fontessa, Place Vendôme, altri brani così impressionistici, scintillanti, beh, in qualche modo sembrava la classicità del jazz, andavano, no? Bene in mostra, e quindi raddoppiavano i concerti, quelli del Canale di Festa del Jazz e quelli dei teatri comunali. L'abito in questo caso fa il monaco. Ma il monaco spera suonare, però appunto, perché a volte sai, dietro l'abito il re è nudo, qui invece il re era ampiamente ben vestito, sì, e anche ben messo. Per quanto riguarda questa sera invece, visto che iniziamo con la presentazione del weekend che inizia, come ben sapete, nella giornata di venerdì, oggi 20 ottobre, procede la rassegna Fresh and Bold, è in collaborazione con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, già è il titolo del progetto, Freedom Now Trio insieme a Achille Succi e Daniele Santimone. Abbiamo Stefano Senni molto presente al contrabbasso, Fabrizio Puglisi altrettanto presente anche con altri progetti al torrione e al pianoforte, Achille Succi sax contralto e clarinetto basso. Allora, Achille per me è una voce potentissima, è uno dei musicisti italiani che tra l'altro hanno dato più particolarità alle sonorità jazz, scusate, non solo per quanto riguarda lo stilema, ma anche per questa forza che rappresenta nella sua musica. Anche tu hai avuto modo di ascoltare Achille Succi più sì, volte. Sì, notevole, sì. E mi interessa, mi incuriosisce il Freedom Now Suite, il Freedom Now Trio, perché ti ricordiamo, cosa ti ricorda? La Freedom Now Suite era quella di Sonny Rollins nel 59 con Max Roach, Oscar Pettiford, e poi arrivò la Freedom Now Insist, il disco mitico di Max Roach. Non so se è un riferimento a quell'epopea del jazz oppure è un concetto di libertà musicale artistica più generico. Lo ascoltiamo insieme alla chiacchierata che ho portato con il batterista e anche frontman di questo progetto, Alessandro Paternesi, e poi torniamo in diretta anche per ascoltare qualche nota delle loro composizioni. Questo trio nasce in realtà pre-Covid, per cui facemmo delle date con Fabrizio e Stefano, perché poi io mi trasferì a Bologna, insomma, qualche anno prima, e poi ci trovammo e nacque questo trio, diciamo, collettivo, e continua ad essere così. E a quel punto abbiamo detto, ma perché non continuare appena finito il Covid a suonare, perché avevamo bisogno di questa libertà e di questa aria, diciamo, un po' di libertà, di gioia, di freschezza, quindi di interpretare degli standard o dei brani che a noi piacevano in maniera così, filtrandola in base alle nostre personalità. Dopodiché noi ci siamo trovati tutti e tre ad insegnare qua in conservatorio a Ferrara, casualmente, e quale momento migliore per proporre il repertorio del nostro trio insieme ad altri due insegnanti che sono nostri colleghi qua, appunto Achille Succi e Daniele Santimone. Avere delle sonorità contemporanee ma allo stesso tempo un suono acustico antico, tra virgolette, perché poi anche le cose che abbiamo registrato, i video che abbiamo fatto, erano totalmente acustici, non avevamo amplificazione, quindi c'era il piano acustico, contrabbasso acustico e batteria acustica, per cui io mi così il suono è quello antico, però con delle sonorità di libertà e di raffinatezza contemporaneo. Ecco, questo è un po' l'obiettivo del trio, e devo dire che con due musicisti così suonare è veramente ogni volta un'esperienza, perché sono sia eclettici, però nello stesso tempo si respira un sacco la voglia di portare avanti la tradizione, quindi è possibile tutto. Cioè, la cosa bella di quando suoniamo insieme è che, cioè, in qualsiasi istante può succedere qualsiasi cosa, è sempre tutto a posto. Thank you. Ricordo che la rassegna del venerdì al Torrione, come già da un po' di tempo, fra l'altro, porta talenti italiani che ormai posso dire che sono affermati. Oltretutto è una rassegna parallela a quella del Main Concert. È strutturata certamente dando un'attenzione, come ho descritto in precedenza, alternativa, tra virgolette, però nomi di grande riguardo e attenzione. E questa particolare composizione ne dà un po' testimonianza, insomma, molto monchiano, con questi stop and go, come giustamente notavi, Alfredo. Sì, in particolare il ritmo è monchiano, che con questi stop and go, dice giustamente, e anche questi, in modo, insomma, il pugliese è diverso dal vecchio Thelonious, ma anche questi accordi sono fatti però con delle dissonanze che ricordano appunto. Certo. Beh, qui proprio Monk. Sì, da misterioso a tante. È proprio bravo Fabrizio. Fabrizio Puglisi al pianoforte, Alessandro Paternesi alla batteria. Concludiamo il trio qui, solo in trio, perché il quintetto sarà edizione straordinaria al Torrione. Conclude, come ho detto, al contrabbasso Stefano Senni. Avremo il quintetto con il featuring di Achille Succi al contralto e al clarinetto basso e Daniele Santimone alla chitarra. Epoca moderna, purtroppo, personalmente, che non sono un bravissimo businessman, o quantomeno non lo sono più, ci stavamo interrogando se fare un'incisione discografica e in che forma farla. Per ora ci siamo limitati a dei video che poi usciranno anche, insomma, tra breve, e per adesso siamo fermati lì. Poi, appunto, da ora fino al prossimo mese avremo anche degli altri concerti e poi vediamo che cosa accade, ma non è, diciamo, la priorità del gruppo adesso incidere in questo momento, ma sicuramente lo faremo. Attenzione a quello che ascolteremo: saranno brani originali o ci saranno interpretazioni anche di altri musicisti? Allora, ci sarà questo brano di Abbarz, che è un brano, diciamo, composto in maniera, sì, più soul, diciamo, comunque even come direzione musicale. E poi ci saranno diversi standard, per esempio, che ne so, My Man's Gone Now di Gershwin, che però ha arrangiato Fabrizio, e poi ci sarà Evidence, poi ci sarà un brano di Achille Succi. Insomma, la cosa che ci interessa fare è prendere del materiale e cercare di dare organicità al materiale in base a come le nostre personalità rispondono alla musica, ecco. Secondo me quello è la cifra di questo trio, che poi diventa tutto organico. Sì, infatti, è già dal titolo, tra l'altro, Freakin' Out Trio lascia intendere a un'apertura artistica e non solo. Aprirà il weekend al Torrione venerdì 20 ottobre la rassegna Fresh and Bold. Io ti ringrazio tantissimo, Alessandro. Grazie mille a te, che piacere. Grazie, ci vediamo venerdì. A presto. Come disco tra uno stacco e l'altro ho voluto portare The Birth of Cool, Miles Davis e Gil Evans. Direi che abbiamo un'eccellenza per quanto riguarda l'interplay di conduzione, no? 1947, sì, etichetta Capitol, un disco bellissimo, clamoroso. Poi anche chi ha suonato all'interno di questo disco, da Jerry Mulligan a Lee Konitz, insomma musicisti veramente di eccellenza. Quando c'era questo locale Four Roses a New York, per la prima volta non compariva solo gli esecutori, ma anche l'arrangiatore. Ecco, e fu una, quello che dà la dimostrazione che era Gileva, infatti, sì. Questo canadese. E invece domani saremo a Cuba, no, a parte questa divagazione, sabato 21 ottobre il main concert ci farà conoscere un trio capeggiato da Danny Noel al contrabbasso, al basso elettrico, insieme al suo trio Confluence. Lui è originario di Cuba, è nato a La Habana, dove inizia una carriera importante con altrettante collaborazioni. Per questo aspettiamo anche una composizione, oltre che certamente legata a determinate ritmiche e anche però a qualcosa che dia al modern jazz lo sguardo importante per un'intersezione di grande gusto e qualità. Insieme a lui Alessandro Napolitano alla batteria, Billy O'Connell al pianoforte, ne sentiamo un brano che sono riuscito a intercettare, e poi il main concert per domani sarà Danny Noel and the Confluence Trio. Ascoltiamo. We'll be right back. un aspetto sotteso di musica originaria da Cuba. Ovviamente non sto millantando, questo non è un trio, è chiaro. No? Mi sembra di no. No, è ovvio. A meno che non faccio come Roland Kerr, che ognuno suona sei strumenti. Ho trovato questa composizione. Ecco, lui al contrabbasso, Danny Noel. Basso elettrico. Beh, lo troviamo nel 2006, il primo disco era Mi Sentiment, dove si diventa come, si impone come solista ma anche come arrangiatrice, poi suona con Kenny Garrett, con Il Razzo del Negro, anche con Zucchero ha fatto da altre cose, mentre Bill O'Connell che abbiamo ascoltato prima solo al piano, infatti, sì. Anche lui è sul versante sabor latino, però ha lavorato all'inizio della sua carriera anche con personaggi come Sonny Rollins o Chet Baker, vuol dire, quindi ha un passato, ma ho sentito, però infatti... più legato il presente, più legato all'insegnamento. Ecco, il trombettista non ci sarà in questo caso. No. Ho tenuto questo brano perché nella parte iniziale c'è la solo al piano e poi questa linea di basso elettrico. No, ma è Bill O'Connor che con la sinistra non è il piano, con la destra è la tromba. Altro. Giusto, rubo la definizione. Io copio molto da Alfredo, ascolto molto quando parlo perché sabor latino mi può aiutare anche per dare. Tra l'altro, a proposito di sabor latino, avremo anche più avanti, ma ne parleremo Miguez e non. Alla faccia del sabor. Il saborissimo. Sabroso. E arriviamo alla conclusione ricordando che la domenica è curata da Serco Tonale Istantanea e per questa domenica ritroviamo una formazione che già abbiamo conosciuto con quella che è l'orchestra creativa dell'Emilia Romagna, Ghost Guantanamo. Anche in questo caso sai chi c'è? Fabrizio Puglisi. Ma certo, ma c'è anche Chille Succi. Sì, e poi c'è Pasquale Mirra. Pasquale Mirra per me è un Danilo Mineo. Per me Mirra è un musicista eccezionale. Anche secondo Devo me, dire una certo, grande anche gli altri al vibrafono, marimba, certo, varie cose. Sì, sì, sì. Quindi è un'orchestra, il progetto Ghost Guantanamo, ne abbiamo parlato, abbiamo sentito. Guantanamo mi sa che sia un riferimento. Ah, beh, certo. Alle libertà negate. È chiaro, con l'orchestra creativa dell'Emilia Romagna si chiuderà la rassegna al Torrione. Allora, intanto partirà anche la diffusione con Oh Jazz, che non è una mia esclamazione di entusiasmo, ma è una piattaforma che dà diffusione ai concerti dei più importanti jazz club in tutto il mondo. Per l'Italia è stato selezionato il Torrione e vi è diffusione a livello mondiale di queste esposizioni in musica che diventeranno protagoniste anche su Oh Jazz. Senti qua se non è sabroso. E salsa, non sempre, diciamo, noi la conosciamo un po' così da volte di leggiata. Come scuole di danza. Non è solo questo. Non è solo che già quello, va bene. Che per, ma ci mancherebbe. Anzi. D'altra parte Cuba è un territorio di jazz antichissimo, sì. Perché quando c'era Battista il dittatore, che era il bordello dell'America, era pieno di club e di gangster, sono i club e i gangster, c'era il jazz. Arriva il jazz, ovviamente. Dopo la rivoluzione ha mantenuto il jazz, sì, non l'hanno buttato a mare con il dittatore. È diventato Boogaloo poi Boogaloo, anche con le sonorità che abbiamo definito. Che viva Cuba! E viva Cuba! Andiamo in pubblicità, rientriamo con ufficialmente la prima puntata di presentazione della edizione 2023 del Bologna Jazz Festival. Oibò! Oibò, è arrivato!